ringraziare i nostri tecnici ancora prima del buongiorno, perché dal 2024 con questo nuovo sistema di digitalizzazione, io che tanto la critico, invece abbiamo una possibilità di dare ai nostri format una puntualità veramente svizzera. E 11:31 minuti che in questo momento stanno scoccando nei nostri orologi, ma anche nei vostri, per la partenza del Jazz Live. Ho detto e 15, non a caso stavo seguendo la numerazione, e questo lapsus non è poi tanto freudiano, ma è stato anche voluto, se vogliamo. La formazione è completa, la partenza del Jazz Live, oltre che puntuale, porterà al 2024 il riprendere del Jazz Club Ferrara Il Torrione, puntata interamente dedicata alla rassegna di inizio 2024. È un bellissimo venerdì, temperature di stagione, anche se mite l'inverno sta portando colori veramente meravigliosi. Come vi ho detto, dopo la nebbia e la foschia abbiamo dei colori e un sole che accoglie anche questa diretta di vigilia di weekend. C'è anche Alfredo, buongiorno. Mi è piaciuta la tua metafora finale, la nebbia di Tregra. Poesia, alta poesia. Iniziamo. Buongiorno allora, Willy. Ma buongiorno a te, grazie. Oltretutto volevo consegnarti il programma 2024 del Torrione, e in diretta hai dato uno sguardo così, insomma, alle presenze, ai concerti. Due parole così d'impatto, a bruciapelo, come si suol dire, per questa rassegna. Beh, a bruciapelo, la rassegna è sempre di alto livello, a cominciare per esempio dall'appuntamento, parlo chiaramente di gusti personali, certo, quindi piglio oneri d'onori, di Michael Formanek Give and Take, con Alessandro Hawkins al pianoforte, Formanek al contrabbasso ovviamente, e Michael Hattes al contralto. E poi abbiamo tanti italiani di valore, ma vado, parlando solo di stranieri, a Ethan Iverson, sì, che è reduce dopo tanti anni di Bad Plus, adesso è il suo gruppo, con Thomas Morgan, blasonatissimo, ricercatissimo contrabbasso, e Kusha Bladet alla batteria, Albert Hitchcock, Roberto Ottaviano, Aaron Goldberg, Mark Copland, Bobby Watson, vecchio leone che sarà in tournée, Ferrara, ma andrà anche al Fest Jazz di Bergamo, insomma. E poi c'è il resto, uno senza dimenticare il retro del volantino che sto sfogliando, perché non è che faccia memoria. Noi li collezioniamo, consiglio anche a voi, perché sono tutti anche stilosi, se vogliamo. Sì, e dei gruppi magari meno conosciuti al largo pubblico, ma molti di questi importanti, altri conclamati, penso a Francesco Ponticelli, insomma, che è contrabbassista italiano, un compositore di primo ordine. Certo, e aggiungiamo che le formazioni saranno in esibizione al venerdì, al sabato e alla domenica. Già da questo venerdì, sì, si parte. Si comincia con Heim Trio Metz, che incontra il trio di Heim, Varia Schever Nugal. Allora, lui è il pianista francese, El Dufour, ha una band da 12 anni con contrabbasso e batteria, Paiflay Michel, e incontra questa bramina indiana, perché sì, è familiare. Quindi avremo scale musicali diverse. Tu pensi che questa signora, che oggi è giovane, ma comunque è già all'età di un anno e mezzo, conosceva 200 raga a memoria, alle due anni e mezzo 400. Io non so neanche. Non so neanche parlare di Montagne Verdi di Marcella. No. Bella, tu immagini. Comunque, no, poi è figlia d'arte, suona il flauto, canta, insomma, c'è un incontro tra questo trio francese stasera e la musica indiana. E inizieremo con Francesco Bettini. Si comincia a ridosso, appunto, dalla conferenza stampa che si è tenuta mercoledì. Avremo una visione estesa, per me anche un giro intorno al mondo e una curiosità che porta non solamente appassionatissimi addetti ai lavori, ma anche un pubblico che vuole ascoltare, conoscere, addentrarsi ulteriormente per quanto riguarda la conversazione e l'intersezione artistica tra le varie sonorità per tutto il globo. Diamo la parola a Francesco Bettini, allora, che ci porterà a conoscere nel dettaglio questo programma, ma anche i motivi d'incontro al Torrione 2024. Del filo rosso di questa stagione, Francesco? Allora, intanto è una stagione composita, nel senso che ci sono produzioni dirette del Jazz Club e altre, diciamo, che coinvolgono delle partnership e che hanno delle loro linee proprio di produzione. Per cui, in linea di massima, nella prima parte della stagione, i venerdì sera li abbiamo immaginati per andare a scoprire progetti nuovi di musicisti giovani e relativamente giovani e su scala italiana ma anche europea. Non a caso quello che citavi all'inizio è un trio francese che si chiama AIM, che sono le iniziali dei nomi dei tre musicisti, il pianista, il batterista e il contrabbassista, che ospitano un'interprete vocale indiana, bravissima nell'ambito sia della tradizione della musica carnatica e quindi tutte quelle scomposizioni, quelle specie di skit in tutti i tempi possibili e immaginabili, ma anche il canto diciamo più classico, e quindi una bella ibridazione, appunto un giro intorno al mondo, ma perché poi ci saranno anche tanti altri episodi dove si va in Brasile, in Centro America, ovviamente negli States e via dicendo, e in Africa. Per cui niente, questa linea di venerdì ci accompagnerà per tutto il mese di febbraio e la fine di gennaio, perché ricominciamo il venerdì 26, mentre sabato sera ci sono concerti sia di protagonisti diciamo del jazz italiano che del jazz internazionale, che diventeranno invece molto più fitti nei mesi di marzo e di aprile, dove si vanno a incrociare le strade con alcune produzioni di Crossroad, con i vincitori del contest Seven Virtual Jazz Club, sono musicisti molto interessanti, un gruppo israeliano e un duo francese veramente notevole, e poi la linea diciamo più prettamente legata all'attualità, ma soprattutto ai progetti di un ampio collettivo che si chiama Istantanea, che appunto abbracciano questa programmazione domenicale di generalmente di piccoli gruppi, ma talvolta anche di gruppi molto estesi, come per esempio la Tower Jazz Composer Orchestra, e lì si abbracciano tantissimi linguaggi, cioè dall'elettronica pura fino alla classica contemporanea, e passando per diciamo jazz abbastanza aperto come strutture, quindi cose diciamo non nel versante classicistico del linguaggio. E che dire, poi ci sono tantissimi nomi straordinari, soprattutto già in febbraio il quartetto di Michael Formanek è un bellissimo progetto che vede musicisti sia statunitensi che europei coinvolti, ed è un compositore, un performer incredibile, insomma, che ha una carriera pazzesca alle spalle sia nell'ambito del jazz più tradizionale che nel mondo diciamo downtown di New York, per citare diciamo il primo su cui si incappa. Thank you. brano che stiamo ascoltando, Bangalore, da non confondersi con i Nuovi Angeli, che non è Bangalore, vi saluto belle signore, no, quello era Singapore. La tua cultura musicale è spazio vedi, dall'Occidente all'Oriente. Te l'ho detto che sto crescendo in musica, no, parte gli scherzi. Bangalore, il brano di E.I.M. con il featuring di vari Asher Vanugopal. Io sarò presente questa sera all'apertura del Torrione, magari per ascoltati in altri suoni per voi al Breakfast Club. Porteremo, sperando che abbiano anche delle produzioni in vinile o in CD da proporre all'ascolto per i 103.1. Qua Salvatore Titolo andrebbe a nozze. Sono sonorità sì, che poi no, poi c'è anche quando passerà lo sket indiano, insomma, certo, è certo, sempre un pezzo da sentire coinvolgente, sì, e poi c'è questa ripetizione, reiterazione alla ricerca, mai uguale a se stessa, sempre alla ricerca di una sonorità di intersezione tra la musica dell'improvvisazione jazzistica nel modern jazz. Ma pensa quando tradizione. Ci si domandava, ma è vero jazz? Ma non finisce qui il nostro viaggio in Asia. Il viaggio sarà un po' ovunque. Intanto il 27 ne parleremo anche con Francesco. La giornata della memoria porterà un concerto appunto in questa realtà di cui Francesco darà qualche anticipazione. No, dicevo che il nostro viaggio in Asia prosegue perché domenica avremo una interprete coreana invece. Dicevo, no, del viaggio intorno al mondo che prosegue. In questo caso con uno sguardo e un respiro per le domeniche di istantanea con un lavoro che ci farà conoscere musica coreana, ma ne parleremo con Francesco poi nei nostri motivi di conversazione. Ma poi ci sarà, non so, Tonino Horta, Miguel Zenon, il nuovo gruppo di Bobby Watson, Lionel Weke con Gretchen Parlato che presenta un nuovo disco, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo parlando veramente di tantissime produzioni che poi, diciamo, e ritorni, ma anche cose nuove, un po' per celebrare questi 25 anni di attività del Jazz Club che andremo a, cioè che stiamo festeggiando nel corso di questa stagione, ma che si verranno compiuti alla fine di febbraio, e infatti marzo e aprile sono faville, insomma, dal punto di vista della programmazione, proprio per celebrare il tutto. Non celebreremo anche un po' la storia del jazz a Ferrara il 30 aprile, la giornata internazionale del jazz, perché faremo una serata insieme al Dipartimento Jazz del Conservatorio di Ferrara e al Gruppo dei Dieci, dove che, il cui direttore artistico è uno dei fondatori del Jazz Club di Ferrara, Alessandro Mistri, e in cui c'è un po' l'idea del jazz ai primordi di Ferrara con la Roaring Twenties Jazz Band, e poi diciamo quello che è la storia più recente ma sempre legata al territorio con il Wilco Trio, e poi in coda una serie di piccoli set dei giovani del Dipartimento Jazz del Conservatorio che rappresentano sostanzialmente quello che sarà il futuro. E quindi un po' cioè il titolo è Jazz a Ferrara, ieri, oggi e domani. venerdì prossimo per la musica che state ascoltando di Michael Formanek, un brano che ho ritrovato appunto dalla sua discografia non recente. Magari saranno presentate anche nuove produzioni per il concerto prossimo, Main Concert, non di questo sabato ma di quello successivo. Stiamo un pochettino toccando diversi punti di inizio stagione 2024, poi ne daremo approfondimento a ogni puntata. Comunque volevo aggiungere che si conferma una collaborazione, l'amministrazione di Ferrara con grande entusiasmo conferma l'importanza di una sede concertistica così universale, così importante, e quindi onore al merito per questa collaborazione. Aggiungo, parlerò con l'assessore perché dietro alla voce di intervista avete sentito come il cigolio di una porta. Ecco, magari chiederò di mettere un po' d'olio, perché l'intervista se no viene con una colonna sonora un pochettino noise, non molto attinente ai contenuti che stiamo portando. Bando a queste finezze se vogliamo, però se sentite un cigolio sotto la voce di Francesco Bettini è proprio la porta che introduce alla sala dell'Arengo in piazza del Municipio a Ferrara. Chiederò di avere questa attenzione, però come dicevo, già averne per il Torrione è qualcosa di fondamentale, la collaborazione Jetzer, perché nella seconda realtà 2023-2024 il Torrione va in intersezione con Crossover Jazz di Ravenna, Seven Virtual Jazz, questo contest, e ogni volta con i concerti di Seven Virtual Jazz allora non sono mai rimasto deluso. La collaborazione all'ascolto e diffusione in streaming con questo nuovo impianto che è il Torrione, portandomi sulla testa la colonna, famoso posto colonna, una struttura di microfoni particolarmente atti a questa modalità di registrazione, la collaborazione con il conservatorio, discorso di così condivisione con i più giovani di cui avremo anche particolare notizia nella seconda parte con Marta Raviglia, e l'entusiasmo di Federico Danneo, il presidente, e ne ha ben donde, perché Francesco è riuscito ancora una volta a portare un programma eterogeneo, variegato, curioso e interessante. Ne parleremo la prossima puntata, ma Michael Formanek, dicevi, un musicista che a te piace. Sì, perché proprio il brano che sentiamo si sente che è dannata, perché risente ancora della lunga militanza di Formanek al contrabbasso del gruppo di Tim Berne, questi temi circolari. Okay. E qui ha attraversato tutta la vanguardia, si parlava Francesco da Downtown, Formanek è uno dei un habitué della Downtown, in tanti dischi, sia da leader che come performer. Però adesso vorrei dire, tra le tante collaborazioni del Torrione, ricordiamone neanche una con Radio Sta Fucico. Non voglio certo sottovalutare un lavoro di approfondimento e di informazione costante con il Jet Live, anzi al termine lo ricordo anche nel dialogo con Francesco. Procediamo anche con parlare della musica coreana. Sì. Ah, io sono il massimo esperto. Ok, perfetto. Allora dopo ci spiegherai questa strana chitarra che, ha un nome molto particolare. Comunque procediamo, perché appunto il weekend è imminente. Questo weekend, anche imminente la domenica, una produzione che coinvolge musica coreana. Esatto, perché attorno, diciamo, al mondo di istantanea girano artisti, in questo caso di base prevalentemente a Bologna, e tra cui questa pianista e poi suona uno strumento tradizionale che si chiama Gagayeu. Anch'io ho letto qualche anticipazione, esatto. Ne sono rimasto incuriosito. E quindi si fa parte proprio di quella linea, no, di istantanea, sì. Di andare a che poi per tanti aspetti è anche quella di alcuni venerdì sera, appunto, cioè la partenza questo weekend, al di là dello spettacolo di sabato che è molto mirato, però presenta cose abbastanza difformi e dissimili. Anche quello del giorno della memoria che faremo in collaborazione con il MEIS, è un concerto che appunto spazia in ambiti di altri linguaggi, di tradizioni musicali, diciamo, etniche, perché è di Gabriele Cohen, che è uno specialista proprio di musica ebraica, crea una sorta di Jewish jazz prendendo tutto quello che è la tradizione Yiddish, klezmer e via dicendo, e andandola a incrociare con le strutture e l'improvvisazione jazzistica. per cui appunto non so, venerdì si va in India, sabato si va nel mondo della musica, della musica ebraica, non solo klezmer, e domenica in questo diciamo impro collegata alla tradizione coreana, per cui come dire, già questo primo weekend raccoglie un po' l'idea, cioè quello di dare, come abbiamo sempre poi fatto, quanti più spunti all'ascoltatore di interesse, di approfondimento, e quindi rendendo e sperando che il pubblico si incuriosisca e vada diciamo ad ascoltare anche cose che non sono, che non fanno parte della propria comfort zone di ascolto. Questo sarà domenica invece istantanea, che racchiude diverse sonorità, sperimentazione con il contemporaneo, con l'elettronica, in questo caso anche con la tradizione. Qui siamo più da Angelica, prima ho citato Salvatore sì, Titolo. Sì, io sono un'autorità. Ah. Sicuramente avrai letto il mio voluminoso tomo da Charlie Christian al Gagageum, con certo, un parallelismo tra Jimi Hendrix edito e Cujon. Edito da Adelphi, se Delphi, volete, sì, sì, sì. Potete acquistarlo. No, esaurito purtroppo, è andata a ruba. È un fuori catalogo. No, sono 100 pagine, tutte sulla chitarra giù di lì. No, però aggiungiamo anche che in una sede come il Torrione fa molto il contesto in cui, certo, si può fruire una musica che magari per qualche minuto radiofonicamente parlando può stranire, ma come ha detto Bettini bisogna uscire dalla comfort zone per conoscere, e certamente il Torrione mette poi a vostra disposizione, a vostro agio per l'ascolto, anche le sonorità che per qualche minuto possono rendere così, oltre che curioso, anche un po' confuso l'ascoltatore. E noi procediamo, stiamo arrivando al termine per quanto riguarda queste collaborazioni per la prima puntata, dove tutto il programma del 2024 inizio lo stiamo racchiudendo in questa mezz'oretta, ma ovviamente, come già ho detto in precedenza, procederemo poi venerdì per venerdì, a weekend per weekend, a darne diffusione tra interviste e musica. Collaborazioni vi parlavo, e quindi concluderemo in tal modo. Assolutamente sì, come tutti gli anni il Bolognese Festival affida l'immagine coordinata a illustratori, artisti. Quest'anno è una collettiva di 4 artiste illustratrici iraniane sul tema donna, vita e libertà, per cui diciamo l'immaginario della musica si incrocia con il tema del sociale, tema attualissimo. E tuttora, non è che l'abbiamo fatto a novembre e adesso non lo sia più, e per questo, proprio per questa ragione, essendoci una collaborazione stabile e continuativa tra il Bolognese Festival e il Jazz Club di Ferrara, abbiamo deciso di prolungare questa esposizione nello splendido spazio del Torrione San Giovanni, la nostra sede, che appunto, per chi non la conoscesse, è uno splendido bastione delle mura di Ferrara, a forma circolare, e nelle nicchie che circondano, che fanno diciamo da circonferenza proprio della struttura, ci saranno esposte 13 opere con anche una spiegazione diciamo di tutto il progetto. Si procede anche con le collaborazioni con il Conservatorio, di cui il Torrione è sede per le lezioni e per gli incontri. Esatto, ho già citato la presenza del Conservatorio per il 30 aprile, ma il Torrione è la loro sede, in particolare del Dipartimento Jazz. Questo è lo è da qualche anno ed è un, come dire, per noi è stata un'operazione assolutamente sensata e anche funzionale ad entrambe le realtà. In questo modo tutti i giovani musicisti approcciano questo spazio, che poi è uno spazio dove non è solo un luogo di studio, ma è anche un luogo dove possono suonare, perché sono tante le occasioni in cui ai concerti seguono la jam session, magari confrontandosi con musicisti diciamo più esperti, e poi anche in cui possono fruire di tanti pesi massimi diciamo del jazz internazionale, e quindi l'ascolto è comunque una fase fondamentale della formazione di un musicista, e quindi appunto crescere anche come fruitori. Ti auguro, oltre che buon 2024, buon jazz, si sa, e mi sento di dirti anche buon viaggio, visto le note ovunque. Grazie Francesco. Grazie William, e vi aspettiamo numerosi al Torrione. Ci sono circa 45 appuntamenti dal 26 di gennaio al 5 di maggio, per cui insomma le occasioni sono tante. Guardate bene il programma in dettaglio sul sito jazzclubferrara.com e seguite Jazz Live. Grazie. Visto che l'ho fatta la citazione, fatto. Ho portato la citazione del Jazz Live in conclusione. Ascoltiamo Gabriel Cohen e la Jewish Experience, che per la giornata di domani, 27 gennaio, sarà il main concert, giornata della memoria al Torrione, che ogni anno riporta sonorità tra klezmer, jazz, linguaggio yiddish e un'attinenza. L'anno scorso ci fu un concerto bellissimo dedicato alle musiche di Bart Bach. Cara. E quest'anno invece avremo Gabriele Cohen con Jewish Experience, che con un quartetto che vede Pietro Lusso al pianoforte, Marco Loddo al contrabbasso, Luca Capponi alla batteria, il frontman al sax soprano e al clarinetto, Gabriele Cohen. Tra l'altro la tradizione klezmer riporta clarinettisti da Krakauer, la vecchia guardia, sì, una vecchia guardia, Io Feldman mitico fino a Krakauer, Kosmetic eccetera. E ci accompagnerà la pubblicità, poi rientreremo con... Sì, ma... Volevi aggiungere? Scusa. Sì, perché klezmer è una storia strana. Nel senso, con le repressioni nell'est Europa era scomparso. Sì. Poi è ricomparso nel Novecento in America Latina e Argentina, e al nord parallelamente al jazz. Per cui c'erano grandissimi musicisti di aria ebraica che sono entrati per la nascita del jazz, importantissimi. E hanno contribuito in maniera fondamentale. Fondendosi in quell'anima caraibica che fondò il jazz, quindi per poi dire più avanti Benny Goodman ed altri. Cioè, il clarinetto è uno strumento che non a caso era principe del jazz, perché appunto affondava. Proveniva con queste radici. Ma vedi, non sempre la violenza la vince. In questo caso la musica la vince. E tra poco con Jazz Live daremo continuità a tutto ciò con la seconda parte del nostro format dedicato al jazz, speciale Torrione 2024. A tra poco. questo rientro, seconda parte di Jet Live. Vi anticipiamo sabato 17 febbraio Lanzoni, Evangelista Ballard, un trio di cui avete un assaggio musicale. Alessandro Lanzoni al pianoforte, Gabriele Evangelista, un contrabbassista da seguire, molto talentuoso e ispirato, e Jeff Ballard alla batteria. Tra l'altro, Alfredo, tu hai già avuto modo di sentire Lanzoni, il pianoforte. Sì, l'abbiamo visto recentemente, sì, al Festival dell'Aquila, bravissimo. Qui l'abbiamo visto, sentiamo in un brano dalle sonorità tipicamente monchiane, direi. Ma non mancano i pianoforti di valore, sempre dall'Aquila ho sentito Antonio Farò, sì, che è un musicista con una tecnica davvero impressionante. Prossima puntata. Sì. E poi ho letto Alexander Hawkins. Hawkins, altro personaggio che è già al Torrione, ha mostrato il suo valore da solista, anche in dischi. Lo troveremo tra l'altro Hawkins in due formazioni, sì. E la prima è con Formanek, di cui si parlava, la seconda è con Roberto Ottaviano. E ho fatto un disco incredibile, molto bello, in duo con Hawkins e Ottaviano. Lì sei segnalato e adesso tu arrivi in quartetto. Insomma, c'è tutto di più in questo programma. E tanto entusiasmo, come di consueto, dalle parole di Federico Danneo, che ne è il presidente del Jazz Club. Con l'entusiasmo di Federico Danneo, presidente del Jazz Club Ferrara, siamo in procinto di partire per il 2024 e, come ho salutato Francesco, il direttore artistico, auguro subito anche a te, oltre che un buon anno, un buon viaggio, perché è veramente uno spazio, oltre che esteso nella ricerca musicale, anche intenso per quanto riguarda i protagonisti. Come ti senti, Federico? Come sempre alla grande, come sempre alla grande, ed è sempre un'emozione ricominciare, perché insomma, anche se siamo stati fermi qualche giorno, ma insomma, siamo sempre pronti. Però ti dico, dico qualcosa che casomai è un po' forte: a me non interessa solo il jazz, no? Ma mi interessa proprio anche tutto quello che si fa dentro al Torrione, che è un luogo meraviglioso, come tu sai. C'è una qualità musicale altissima, ma poi noi lavoriamo anche sulla formazione, abbiamo questa bellissima mostra che viene da Bologna, dal Bologna Jazz Festival, sulla una grafica che hanno ideato degli artisti iraniani sulla loro battaglia per le donne in Iran. Insomma, abbiamo una borsa di studio, abbiamo tantissime cose. E se tu dici quello è solo un jazz club, è troppo poco, è limitante molto molto. E poi insomma, la borsa di studio Emanuele Rossi, che è il secondo anno, l'anno scorso i ragazzi che sono stati assegnatari della borsa di studio hanno fatto questa esperienza assieme a Jazz, è stata per loro straordinaria, è straordinario anche per noi sostenerli. E poi insomma le jam session, insomma il gran lavoro di tutti, e soprattutto siamo in un luogo dove insomma si sta bene, ecco, molto bene, quindi... Il pubblico è assolutamente eterogeneo, il pubblico è lì anche per conversare anche altro oltre al jazz, e questo è un aspetto fondamentale proprio per una tua teoria, un tuo entusiasmo, cioè di avvicinamento. Assolutamente, dobbiamo avvicinare, questo è anche il nostro compito, no? Culturale, di far entrare nuovo pubblico, giovani che saranno il sostegno nel futuro. E tra l'altro, proprio recentemente, qualche giorno fa, abbiamo anche firmato una bellissima convenzione con la Fondazione MEIS, che ci permette e permette ai visitatori del MEIS di venire ai concerti del Jazz Club con un sconto e anche una riduzione sulla tessera. E anche i soci del Jazz Club potranno andare al MEIS con delle scontistiche sia nell'ingresso sia nel bookshop. Quindi insomma, voglio dire, dobbiamo assolutamente allargare, è assolutamente necessario. E la musica poi, voglio dire, è talmente ampia, cioè, e i curiosi soprattutto. Noi vogliamo nel Jazz Club i curiosi, quelle persone che amano la musica in qualsiasi forma e che non si fanno spaventare, ecco. Continua la collaborazione anche per quanto riguarda quella diffusione, avete lavorato tanto, no? Anche vicino al mio posto Colonna, avete messo dei microfoni che potevano dare diffusione in rete. Certo, continua, abbiamo altri concerti, peraltro il primo sarà proprio sabato con Gabriele Cohen, ed è anche quella una cosa straordinaria, cioè noi siamo nel mondo, cioè con il Torrione insieme ad altri jazz club che sono anche loro nel mondo. Certo, è una fruizione di musica diversa, però è anche quello un, ma anche un merito di nostro, e grazie anche a Jazz perché ci ha messo in condizione di poter far vedere cosa succede dentro questo magnifico torrione San Giovanni a Ferrara. Ci vediamo prestissimo e grazie. Io ti voglio sempre lì vicino alla colonna. Okay, grazie a te. Ci sarò. La colonna è importante. Versione di All the Things You Are, non ho colto di sorpresa Alfredo, che seppur un po' così facile puoi fare confusione, Alfredo, con tutti questi sì, standard. Nome, le ballad poi hanno i nomi che durano tre righe, sono lunghissime. Quindi è... No, questo non è This Foolish Things, è All the Things You Are. Esatto, perché vedi, vedi che poi è un attimo. È un attimo. Vicino al posto colonna, nel senso che sono un po' una cariatide. No, siccome Willy è alto, per non disturbare quello dietro che non vedrebbe nulla, lo mettono davanti alla colonna, quindi esatto. Disturba la colonna che non dice nulla. Lei accetta tutto ciò. Su questa colonna vi è una struttura di registrazione con dei microfoni molto sensibili per la diffusione streaming dei concerti. E quando è stato selezionato con altri jazz club per questo canale di diffusione per la colonna mondiale e per la possibilità quando della colonna. Quando tra 400 vedi? Anni scavando verranno in Torrione, sarà famosa dopo la stella di Rosetta la colonna di bisogna Willy. Bisogna tradurre anche. Allora, Bobby Watson, Bobby state Watson. Ascoltando qua, però al pianoforte troviamo Jordan Williams, Curtis Landy al contrabbasso, Victor Jones alla batteria e Wallace Rooney Jr. alla tromba. Bobby Watson con questo new quintet, beh, è stato un vecchio leone, Alfredo. Beh, l'abbiamo visto negli anni 80-70 con Art Blakey fare favilla. Art Blakey è stato un grandissimo talent scout, ricordiamo tra gli altri che ha scoperto gentucola come Wayne Shorter o Keith Jarrett, per dirne, ma Bobby Watson è un altro grande. Questo è il contenuto del concerto, un piccolo assaggio che vi stiamo dando, come ho detto poi ne seguiremo, ma seguiremo anche questo compleanno che è in questa stagione, esattamente tra meno di un mese, in febbraio, e ha citato alcuni personaggi a proposito di leoni attempati per quanto riguarda la storia del jazz a Ferrara. Ricordi, Alfredo, tu che eri già più vicino all'epoca protagonista di questo compleanno? Jerry Roll Morton. Hai capito? No. Beh, il compleanno del Torrione, quindi. Io insomma mi ricordo perfettamente quando il Torrione c'era Sandro Mistri, che è stato citato, che era, aveva una gestione più tradizionale, diciamo. Okay. Comunque ha il merito di aver dato via il jazz a Ferrara e poi tu che ne hai seguito. E poi con Francesco Bettini, la sede che si è spostata all'interno e ha creato la realtà di... era un altro locale molto meno, ovviamente. Un pochettino più, diciamo, dimesso rispetto a... Beh, no, non è un locale normale, mentre Torrione è un monumento. In tutti i sensi. Sì. Allora, concludiamo con la voce di Marta Raviglia, che già conosciamo per quanto riguarda l'arte e la creazione, attività in ambito di voce, e non solo, in questo caso la troviamo anche come organizzatrice con il Conservatorio Frescobaldi e con l'attinenza tra conservatorio e la sede concertistica del Torrione, la possibilità per i giovani di studio, di esperienza e anche di laboratorio che poi verranno portati sul palcoscenico del Torrione stesso. Sentiamo le sue parole. Presentazione del programma 2024 per il Jazz Club Estense Il Torrione con Marta Raviglia. Facciamo un piccolo approfondimento per una grande collaborazione e iniziative che arriveranno fino alla primavera del corrente anno. Intanto buongiorno Marta, e di che si tratta? Buongiorno, ma come di consueto in questa seconda parte della stagione del Jazz Club, il Conservatorio curerà parte del programma musicale dell'International Jazz Day il 30 aprile, che in realtà inaugura anche un nuovo progetto che abbiamo deciso di avviare quest'anno grazie ai fondi Erasmus, che si chiama BIP, è un tipo di mobilità misto che prevede una parte appunto di lezioni online e una parte invece on site che vedrà protagonista proprio il Torrione, con studenti che vengono da quattro diverse istituzioni europee, da Riga, da Breslavia in Polonia, e Lisbona e Barcellona. Quindi insomma un progetto molto prestigioso, molto complesso da realizzare. Il Jazz Club non si è tirato indietro e quindi dopo appunto questa apertura di settimana con l'International Jazz Day, queste studentesse e questi studenti si tratterranno tutta la settimana a Ferrara, e poi il 5 maggio ci sarà un evento conclusivo di restituzione di questo lavoro molto significativo che per quanto riguarda appunto la nostra parte, cioè il Conservatorio di Ferrara, curato da Achille Succi, e il concerto consisterà nell'eseguire le musiche originali che queste ragazze e ragazzi avranno prodotto nella parte, diciamo, preparatoria online e poi successivamente nella settimana intensiva a Ferrara. Quindi un buon inizio di stagione. Sì, insomma, direi buonissimo, anche perché questo progetto che è nuovo ed è di complessissima realizzazione, però ci sta stimolando moltissimo perché stiamo imparando molto, e appunto anche il Jazz Club in questo contesto si è rivelato un partner veramente molto importante, nonché strategico, non solo per gli spazi che ci mette a disposizione, ma anche perché, come ci piace ricordare sempre, è un luogo di aggregazione importante e vogliamo che queste ragazze, questi ragazzi che vengono appunto da questi quattro diversi paesi europei possano fare esperienza di questo luogo straordinario e delle persone magnifiche che lo animano. Avremo modo di risentirci in corso d'opera, allora, e buon lavoro. Grazie mille, grazie, grazie mille. accompagniamo alla conclusione ringraziando anche Marta Raviglia in collaborazione tra il Jazz Club in Torrione, ricordiamo anche la Tower Jazz Composer Orchestra. Insomma, un'oretta è andata con il Torrione veramente densa di contenuti, abbiamo spaziato ovunque. Sì, ma sono talmente ricche le proposte che uno va dall'India alla Corea, all'Africa e poi ritorna a Ferrara e ancora a Bologna, perché do qualche notiziola così che magari ci terrà in musica e non solo compagnia, in questo caso anche con la gastronomia del Paradiso Jazz che arriva, perché arriva sempre, non è così lontano. Dai, siamo ottimisti, l'edizione non è ancora stata presentata ma già vi è sentore di quella che è la 16ª mi pare edizione del Paradiso Jazz a San Lazzaro, ne parleremo ovviamente. Ecco, vorrei fare anche un promo prima di chiudere. Domani a Serpinus 3 nuovi dischi alle ore 11, due big band, una pianista Laila Biali, un trombettista Daniel Herzog e poi una band, un gruppo che fa la musica di quelle, sai, che sono un po' a cavallo tra il rock e non il rock, sì, il jazz, quelle cose strane. Questo crossover. God the Blessing. Tra l'altro è stata richiestissima la lista della puntata scorsa di Alessandro Baroni, sì, quindi. bene. Alex Hitchcock Dream Band stiamo ascoltando, sarà venerdì 8 marzo al Torrione e con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla venerdì prossimo augurandovi un buon weekend. Ciao a tutti, ciao da William e Alfredo, ciao.